9 in punto. Siamo dentro, non possiamo fare niente, non abbiamo la nostra moneta. Potessimo svalutare, svaluteremo i titoli di Stato, si svaluterebbero con la nostra moneta. Ma siamo ancorati a qualcosa che non si riesce a capire. Ma l'Europa è stata un'idea meravigliosa dei vari Delors, dei vari Brandt, ma ha fallito mettendo economie distantissime insieme con una moneta che non doveva essere unica. Probabilmente ci saranno due monete, oppure la Merkel, la Germania si riprende al marco. Facciamo un euro debole, noi del sud Europa, tra greci, spagnoli, non so, greci, spagnoli, Portogallo, Irlanda, facciamo un consorzio di euro debole. Eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Partiamo da qua, vada, queste parole di Beppe Grillo, è un'intervista rilasciata un anno fa circa ad Euronews. Oggi la domanda che vi facciamo è insieme molto semplice e molto complessa, ve la facciamo e vi aspetto all'800 24 00 24, oltre che sulla nostra pagina Facebook, dove state già commentando da questa mattina, www.facebook.com/9in.radio24. Insomma, quest'euro regge oppure no? Conviene restare dentro o conviene uscire? Capisco che così sia un po' brutale, ma naturalmente adesso ne parleremo con chi ne capisce assai più di me. Saluto innanzitutto Paolo Savona, professore emerito di politica economica, ex ministro, ora presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Buongiorno, professor Savona. Buongiorno. Allora, lei da tempo lamenta, non da oggi, lamenta il fatto che non ci sia un piano B, ossia c'è il piano A, rimanere nell'euro così com'è, tenere duro, tenere botta, e però non esiste un piano B, un piano per un'eventuale uscita dall'euro. Io non ho capito però una cosa, professore, tra l'altro lei ha redatto un manifesto di recentissimo per una riforma delle istituzioni europee che comprende tra l'altro un'idea di banca centrale molto simile alla Federal Reserve americana che, insomma, lo sappiamo, professore, i tedeschi non l'accetterebbero mai una cosa di questo genere. Io non ho capito però se lei ritiene che in questa condizione, allo stato attuale, sarebbe conveniente uscire dall'euro oppure no. La posizione ha due motivazioni. Intanto, avere un piano B significa che uno va a trattare in Europa una riforma delle istituzioni, e tra queste una delle più importanti è l'estensione del mandato della Banca Centrale Europea, e quindi ha una funzione che possiamo dire tattica, ma di fatto è anch'essa strategica. Il problema di fondo è che io sono convinto che noi non trattiamo con la Germania con sufficienti argomenti forti, garantendo alla Germania che i paesi, compresa l'Italia, che hanno avuto un comportamento di politica fiscale, cioè di spesa pubblica eccessiva in deficit e quindi di indebitamento, praticamente si impegnerebbero a non farlo più. Cioè, la trattativa che va offerta per la riforma dei trattati europei è una trattativa che deve tener conto della posizione dei tedeschi. Allo stato attuale, chiaro che se non ci fosse alcun spazio, ma non l'abbiamo mai verificato, per una riforma delle istituzioni europee, perché non l'abbiamo chiesto argomentando correttamente, come appunto i firmatari dell'appello per un nuovo trattato europeo hanno proposto, illustri personaggi, da Capaldo a Carlo Jean e altri direi importanti personaggi, lo stesso Mario Sarcinelli, che in vita sua non ha mai firmato un appello, chiede che l'Europa affronti questo problema. E siccome l'Europa oggi ha portato enormi vantaggi alla Germania, la mia valutazione è alla fine che la Germania ci starebbe a un nuovo trattato. È chiaro che se non ci sarebbe niente da fare, se non ci fosse niente da fare, bisognerebbe assolutamente attuare un piano B, cioè un'uscita ordinata. E se non si fa un'uscita ordinata, tipo quella alla Grillo, spacchiamo tutto, usciamo, cose del genere, effettivamente non si esce da questa situazione, ma la situazione potrebbe essere peggiore. Infatti, in questo momento sono le paure che sovrastano, le paure di uscita, non le paure di trattare o le paure di avere, direi, un trattato che sia utile non solo alla Germania e ai paesi del nord, ma anche all'Italia e ai paesi del sud. Lei immagina, professore, in questa eventualità un break-up complessivo dell'euro, cioè una divisione in sostanza, un ritorno di tutti alle monete pre-euro o altre monete, insomma, poi uno alla fine può dargli il nome che preferisce naturalmente, anche se sono più comode probabilmente quelle vecchie, o immagina anche un'uscita di singoli paesi, per esempio l'Italia? Guardi, finché Draghi non fece la famosa dichiarazione farò tutto il possibile per rendere irreversibile l'euro, e questo, chiamiamolo, ha tagliato la testa alla speculazione più aggressiva, fino a quel momento questa evenienza era possibile. Oggi la mia valutazione è che non c'è nessuna possibilità che si spacchi l'euro, perché la Banca Centrale Europea è in grado di evitarla. Il problema è che, evitando la deflagrazione dell'euro, alcuni paesi come l'Italia entrerebbero in una crisi irreversibile dal punto di vista economico, con costi economici e sociali fortissimi e con una situazione molto simile a quella greca, dove probabilmente più che all'economia si muoverebbero le piazze. Questo è il vero limite è il movimento delle piazze. Attualmente la mia valutazione è che non ci sarà una deflagrazione dell'euro. Ci sarà un costo per i paesi che saranno costretti a rispettare sia il funzionamento delle istituzioni, da cui la necessità di una riforma, e sia le politiche di attuazione, che sono politiche sempre più penalizzanti, sempre più rigorose, che stanno generando questa situazione di caduta del reddito in Italia e di gravissima disoccupazione. Ci scrivete, voglio leggere qualche messaggio che ci arriva su Facebook. Alessandro Fais scrive: voler uscire dall'euro è il metodo delle pezze all'italiana, meglio sempre l'uovo oggi, non si guarda mai al futuro e alla possibilità di averne uno al giorno di uovo con una bella gallina ovaiola. Meno si è lungimiranti e più si vuole uscire. Dollaro e yen si sono svalutati per controbattere l'euro forte e cercare di aggredirci sui fianchi, uniti compatti e solidi e con una moneta forte, questa dovrebbe essere l'Europa. Agostino Orlando scrive: fuori subito, ripristinare la flessibilità del cambio è l'unica garanzia per riacquistare competitività nel breve periodo, non attraverso la solita deflazione salariale che ha determinato il crollo della domanda interna. Rispondo a chi sostiene che svalutare sbagliato, che dollaro e yen, grazie alla svalutazione rispetto all'euro, hanno salvato le loro esportazioni e la loro economia. Come vedete, si prendono dollaro e yen, ad esempio, per sostenere entrambe le tesi. Giampaolo Galli, economista, ex direttore generale di Confindustria, deputato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Come la vede lei? Ma credo che i ragionamenti che ha fatto Paolo Savona siano ragionamenti che vanno al punto e hanno questo pregio, insomma, di obbligarci a pensare a quelle che sono le scelte veramente importanti di fronte alle quali si trova l'Italia e si trova l'intera Europa. Io condivido con lui, l'avevo letto, il piano A, che è quello di un rafforzamento dell'Europa, un rendere l'Europa un po' meno lontana da un modello federale. Per quello che riguarda il piano B, intanto se uno ha un piano B non lo dice, quindi chi ha delle responsabilità non può certo dire di avere, ma io francamente credo che non sarebbe utile se non come piano di emergenza. Uno c'ha un piano nel caso in cui c'è un terremoto, c'è la protezione civile, insomma, ecco. Oppure mi scusi Galli, sì. come metodo tattico di trattativa, come dice il professor Savona, cioè una cosa che vai a forse è il punto vero su cui sono in cordiale ma fermo disaccordo con il professor Savona. Io credo che questo sarebbe controproducente con la Germania, perché la Germania, il timore dei tedeschi, degli elettori tedeschi, è di essere costretti a pagare più tasse per tirare fuori dai guai gli altri, i paesi, diciamo, periferici che fanno parte dell'euro. E quindi dal punto di vista politico questa non è una minaccia, cioè ci direbbero benvenuti, benvenuti. Cioè, andatevene, senso, ci direbbero. Volete uscire dall'euro, andatevene, finalmente ci siamo tolti un incubo. Ciò che vorrebbe una buona parte dell'opinione pubblica tedesca, degli elettori tedeschi, è costruire una muraglia cinese intorno alla Germania. Non riescono a capire perché loro dovrebbero pagare per i comportamenti dissennati dei paesi periferici, così loro la vedono. Noi abbiamo speso molto, non siamo stati competitivi, non abbiamo fatto le riforme che loro ritengono di avere fatto, e non riescono a capire perché noi andiamo da loro col cappello in mano a chiedere soldi un giorno sì e un giorno no. Quindi credo che l'esito di una cosa del genere sarebbe non un rafforzamento dell'Europa alla fine, ma sarebbe un effettivamente. Poi magari è vero che le elite dirigenti o l'industria tedesca può capire che la rottura dell'euro sarebbe un problema per noi italiani, ma anche per loro e per l'industria tedesca, però le dinamiche politiche vanno oltre queste considerazioni. Iniziamo a sentire Massimiliano dalla provincia di Milano, chiamate all'800 24 00 24. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, senta, io avevo una domanda da fare, no? Che ogni tanto mi viene in mente da dire, perché sentire di uscire dall'euro, come dice la Lega, così che poi fa solo qualche disastro, volevo sapere per un operaio che paga 500 euro al mese di mutuo per la casa, se usciamo dall'euro cosa arriva a pagare? 1.500 euro al mese? Questa è una buona domanda, è una delle questioni che si pongono naturalmente nell'ambito di una riflessione di questo tipo. Però, visto che citava la Lega, io voglio salutare Gianluca Pini, deputato della Lega Nord, componente della Commissione Esteri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché abbiamo voluto Gianluca Pini, come avete sentito, abbiamo messo a confronto due economisti, abbiamo voluto anche un politico, perché? Perché la Lega ha forse organizzato quello che possiamo considerare il primo passo verso un referendum sull'euro. È una legge di iniziativa popolare, in realtà, Pini, per cambiare la Costituzione, no? Ma guardi, io direi che chiamare la proposta di legge che ha fatto, che a prima firma Giancarlo Giorgetti, un tentativo di referendum sull'euro è un po' riduttivo, perché in realtà è un tentativo di allargare in maniera democratica la partecipazione dei cittadini ad esprimersi direttamente su questioni di materia tributaria decise sul piano internazionale e in generale sui trattati internazionali che hanno un impatto immediato e diretto sull'economia dei paesi. La interrompo così spiego io. Che cosa succede? Che non è previsto in Italia, nella nostra Costituzione, la possibilità di fare dei referendum abrogativi sui trattati internazionali. La proposta per la quale di fatto avete raccolto le firme va esattamente in questa direzione, è appunto l'idea di una modifica della Costituzione di questo tipo. Prego, Pini. Niente, no, la sua sintesi è stata perfetta. Non esiste la possibilità di far esprimere i cittadini in maniera diretta e democratica su temi che sembrano distanti perché trattati sul piano internazionale, quindi vanno oltre le solite scaramucce, beghe interne dei vari paesi, ma in realtà hanno un impatto enorme su quelle che sono le scelte. Anche il signore che prima criticava la questione, non è che la Lega propone l'uscita dall'euro, magari c'è qualche mio collega che l'ha ipotizzata, ma quelle sono questioni, diciamo, di valutazioni personali. La Lega fa un ragionamento molto più ampio e molto più democratico. Lasciamo che siano i cittadini informati adeguatamente di quelle che possono essere le scelte euro sì, euro no, il futuro dell'euro, un euro di serie A, un euro di serie B, a valutare se i trattati che sono stati sottoscritti in loro vece da chi governa sul piano internazionale abbiano una valenza positiva o negativa per quello che riguarda le loro tasche, la loro quotidianità. Questo stiamo chiedendo, non mi sembra che sia una roba né rivoluzionaria né anacronistica né antistorica, anzi va in una direzione assolutamente di modernità. Sentiamo Vincenzo che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor. Non mi chiami dottore, mi chiami Spezia, mi chiami come le pare, mi chiami anche Simone se vuole, non mi chiami dottore, prego. Il mio intervento è molto breve a favore dell'euro e della comunità europea. Se adesso si è fatto qualche piccolo passo avanti dal punto di vista delle riforme, è stato proprio per la pressione e il controllo di quei paesi che sono più seri del nostro, perché siamo arrivati a un punto che voglio dire, questi politici senza controllo si sono mangiati tutto il finanziamento, lei pensi se togliamo di nuovo tutte queste regole, tutte queste paletti che ci ha messo l'Europa, cioè questi qua tornerebbero sicuramente a raccontarci quello che vogliono senza nessuna autorità che li controlla, e praticamente sprofonderemmo, secondo me, peggio della Grecia, perché il vero problema è che questi signori, oltre ad essere arroganti e aver fatto quello che hanno fatto, cioè pensano anche di avere diritto per eredità, non so per quale diritto divino, ad essere una casta chiusa e autoreferenziata. Grazie della possibilità di esprimermi. Grazie Vincenzo. Devo dire la verità, che io più o meno proprio su questo sabato ho avuto la disavventura di fare un tweet proprio a proposito di questo tema, sostenendo l'idea che il rischio grosso è che parlare solamente della Germania cattiva e dell'uscita dall'euro come unica soluzione della crisi ci faccia poi dimenticare quello che lasciamo, ci faccia poi mettere la polvere sotto il tappeto, no? Perché nel momento nel quale puoi svalutare rendi, non dico automaticamente, ma rendi il tuo sistema industriale evidentemente più competitivo dal lato del prezzo, e poi però resta il paese che è, con un tax rate elevatissimo, con una burocrazia pazzesca e insostenibile e i mille altri problemi che conosciamo, un discreto livello di ingovernabilità o di difficoltà a governare e così via. Ne riparliamo di tutto questo subito. Dico che ho mandato questo tweet e è stato malauguratamente, proprio perché ho avuto una marea di reazioni durissime, di attacchi durissimi. 9 in punto. Riprendiamo dunque, e vorrei ripartire dal professor Savona. Io ho un po' l'impressione che tutto questo dibattito, come dicevo prima, pur importante, sul ruolo della Germania cattiva e soprattutto con un po' di paraocchi anche elettorali, se vogliamo, e tutto questo dibattito sull'eventuale uscita dall'euro poi finisca per rappresentare un alibi. Insomma, il paese ha una serie di problemi da risolvere, non solo statali, penso anche a quelle imprese che sono entrate nella crisi senza avere la preparazione a un mercato di questo tipo. Insomma, tanto per fare un esempio, penso anche al sistema sindacale che presenta delle arretratezze. Insomma, si guardi a tutto questo per cercare un alibi ancora una volta per non fare le cosiddette riforme, che non sono solamente quelle che può fare la politica, ma sono anche quelle che possiamo fare noi cittadini, che possono fare gli imprenditori, che possono fare i sindacati, le forze sociali in genere. Professore. Ma appunto perciò noi abbiamo bisogno dell'Europa, e quindi io insisto, però un'Europa fatta male, come è stata fatta, ci porta esattamente l'opposto, perché ci siamo disfatti della sovranità monetaria, che era la nostra forza, perché significava stabilire la quantità di monete del credito, i tassi dell'interesse e il rapporto di cambio, se volevamo intervenire. Questi tre strumenti ci hanno consentito ogni volta, in caso di difficoltà, di superarla. Naturalmente l'uso di questi strumenti comporta dei costi, se tu svaluti tutti i prezzi aumentano, e infatti la lamentela dell'occupato che diceva che cosa succederebbe se noi tornassimo alla lira, certamente il potere d'acquisto del suo salario si ridurrebbe come impatto iniziale, e solo però quello si è dichiarato di avere un posto e un salario, e i milioni di persone che non ce l'hanno, non è, quello diventa una forma di egoismo. Un altro dei punti è che noi, e volevo precisare all'amico Galli, Noi non siamo mai andati in Europa col piattino per chiedere dei soldi, assolutamente. Non l'abbiamo mai fatto né ci avrebbero dato. Attualmente il bilancio europeo restituisce all'Italia ciò che l'Italia paga. E da un po' di tempo a questa parte noi italiani insieme ai tedeschi stiamo pagando gli errori degli altri paesi, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, e quindi addirittura noi abbiamo un debito pubblico che aumenta per assistere gli altri. Ora, questo meccanismo è un meccanismo che ci sta portando fuori mercato, non in una situazione disastrosa, perché la struttura produttiva italiana è decisamente migliore di quella della Grecia. Quindi, riassumo, è giusto che l'Italia abbia tante cose da fare, probabilmente non ha quella forza interiore, ma non è la tecnica che suggerisce la Germania, e allora tu paghi un costo che è una tecnica punitiva, tu devi mettere in piedi delle istituzioni che sono in grado di farti superare questo tipo di difficoltà. Se non me lo date, è giusto che l'Italia affronti il problema di fondo di riconquistare questi strumenti. L'Europa si è formata su un rapporto che ahimè fu fatto dagli italiani, intitolato Il costo della non Europa. Se noi non avessimo firmato il trattato di Maastricht e non fossimo entrati nell'euro, noi non avremmo beneficiato di uno sviluppo che allora era valutato intorno al 4-5%, sviluppo in positivo, il che significa 1-2% in più di occupazione, cioè 400.000 posti di lavoro. Invece noi abbiamo avuto 1 milione di disoccupati. Per cui questa situazione la vogliamo affrontare? I problemi che in questi giorni il governo ha affrontato con 80 piccoli provvedimenti sono ordinaria amministrazione, cioè non affrontano il problema di fondo, che noi ci troviamo in una gabbia europea pericolosissima, per cui i gruppi dirigenti devono affrontare questo problema, il problema di cercare di correggere, direi, questa gabbia, renderla più favorevole allo sviluppo, tutti che si preoccupano i problemi di tutti, e la Germania è quella che ha beneficiato di più, e anche da questo punto di vista il famoso piattino che noi avremmo presentato alla Germania, che non abbiamo mai presentato, gli avanzi della bilancia dei pagamenti tedeschi sono pari a 230 miliardi di dollari, le do il valore in dollaro, l'euro sarà 180-170, che è superiore all'avanzo della Cina. Quindi la Germania, secondo i principi, i canoni classici della convivenza internazionale, è lei che deve restituire a noi dei soldi, non noi chiedergli dei soldi agli altri. Deve consentire l'aggiustamento, e l'aggiustamento si ottiene con la flessibilità del cambio, ma con l'euro non è possibile, quindi dobbiamo uscire, per cui l'euro che oggi è 1,30 deve andare a 1,80 in Germania, e se va da 1,30 a 1,80 le esportazioni tedesche non saranno più così forti, quindi è l'istituzione in se stessa, è il modo in cui viene gestito il cambio, anzi non gestito il cambio, che determina questa situazione. Questi sono i veri problemi, questi sono i veri problemi, se non lo vogliamo capire, non capiamolo. E noi nell'appello, con grande equilibrio e grande serietà, abbiamo spiegato: date alla Banca Centrale il potere e dovere di intervenire sul cambio per impedire che avvengano queste cose. Una risposta dovuta ai tanti tweet che mi stanno arrivando. Il mio account è Simone Spezia. La prima risposta dovuta è a chi, allora, per chi non lo sapesse, fuori dalla rete, insomma dentro, ed è fuori dalla rete, dentro Twitter è nato quest'hashtag che è PUDE, che vuol dire Partito Unico dell'Euro, per cui se non si sostengono tesi pienamente di uscita dall'euro si diventa PUDE. Allora quindi rispondo a Ninni Petrone: qua stiamo facendo un dibattito, mi sembra abbastanza interessante e fondato, con il professor Paolo Savona, che non è esattamente, come avete sentito, uno di quelli che dice stiamo nell'euro a tutti i costi, Giampaolo Galli del PD e Gianluca Pini della Lega, un partito che certamente non ha, possiamo dire che non ha una passione smodata per l'euro, Pini, almeno questo possiamo dirlo, no? No, non ce l'ha perché, torno a ripetere, nessuno è mai stato coinvolto in maniera seria, anche confrontandosi con persone come il professor Savona, che ho ascoltato molto attentamente la sua analisi e le devo dire che la condivido in gran parte, soprattutto su quelli che potrebbero essere gli scenari. Però, vede, 10 secondi mi riconsenta, anche perché prima la telefonata di quel radioascoltatore è proprio dalla misura di quanta, sia detta senza offesa, ignoranza c'è sul tema. Cioè, ha parlato di c'è il rischio che torni tutto in mano ai politici senza controllo. Qui stiamo parlando di eurocrati che non eletti da nessuno, che non rispondono a nessuno, decidono sulla pelle di centinaia di milioni di persone, su quelle che sono le sorti dei governi, e il dibattito su questi temi non è mai sviluppato. È proprio l'opposto quello che noi chiediamo. Il nostro non è il fatto di essere anti-europeisti. Forse siamo neo-europeisti, cioè un'Europa che coinvolga i cittadini nelle scelte, non che gliele imponga. Allora, se non si vuole, se la si vuole smettere di ragionare in maniera ipocrita, che è tutta colpa dei politici, e si apre un attimo gli occhi e si vede che in realtà i grandi guai, soprattutto in politica economica, in politica monetaria, le hanno fatte persone che sono ali più sconosciuti, ma che detengono un potere enorme e che nessuno può incidere sulle scelte o sulla rimozione di queste persone qui, forse ci si rende conto che è arrivato il momento di pensare a un'Europa un attimino diversa, soprattutto sul piano della partecipazione democratica. Sentiamo qualche ascoltatore e poi ritorniamo da Giampaolo Galli, che abbiamo un po' abbandonato negli ultimi minuti. Alberto della provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire sull'euro. Io ho 50 anni e ricordo gli anni 70 e 80 vagamente, dove c'era un'inflazione altissima. Adesso qui si parla di uscire dall'Europa come se, tra l'altro secondo me è anche sbagliato dal punto di vista terminologico, e si vorrebbe tornare a cosa? Ad avere inflazioni del 20, 15, 20, 25%? Ma stampiamo carta moneta per cosa? Adesso io vorrei chiedere agli economisti che sono lì se la soluzione di uscire dall'euro è dove ci dovrebbe portare. Perché se vi ricordate, negli Stati Uniti $1,000 nel 1980 o nel 2010 erano la stessa cosa. 1.000.000 lire nell'80 o 1.000.000 lire nel 2000, c'era una differenza abissale. L'euro adesso sarà anche vero che fatichiamo a star dentro, ma è una moneta solida. L'operaio che guadagna 1000 euro al mese, li guadagnava nel 2000, li guadagna oggi, ma sono 1000 euro, sono soldi veri. Adesso dove si dovrebbe andare? Verso una lira di nuovo, un euro due, solo perché abbiamo un debito pubblico a cui non riusciamo a far fronte. Noi spendiamo 800 miliardi, c'è una spesa pubblica di 800 miliardi, è quello il problema, mettiamo i conti a posto e diamo i soldi agli imprenditori per assumere, questo è l'unico problema. Grazie. L'uscire dell'euro è una bufala. Grazie Alberto. Stefano da Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi ritelefonato. Sì, infatti il discorso fondamentalmente è quello, forse il problema non è l'euro, forse il problema è l'Europa che non c'è. Noi abbiamo un'Unione Europea che è da 5 anni concentrata su se stessa, sui problemi dei singoli stati, che ci sono grandissimi e sono da risolvere, ma è come se lo Stato italiano pensasse, e lo deve fare, ma è solo una componente, ai problemi della regione Lazio e della regione Puglia. L'Europa è da 10 anni che non cresce, al massimo ha raggiunto il 3%. È sempre sotto al 2% e si avvicina spesso allo 0%, eppure è la più grossa economia del mondo. E quindi Stefano, mi arrivi ad una conclusione, quindi che cosa bisognerebbe fare? E quindi l'Europa deve agire come una nazione, come una federazione, deve fare un New Deal europeo, deve puntare allo sviluppo. Nei trattati dell'Europa non c'è solo il 3% di deficit e il 60% di rapporto debito-PIL, c'è anche la crescita, c'è anche lo sviluppo. L'obiettivo della Unione Europea era lo sviluppo delle popolazioni europee, non di guardare al dito, ma di guardare alla luna. Grazie, sentiamo anche Pasquale dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. La mia riflessione è semplicissima, nessuno può permettersi di spendere indefinitamente più di quanto entra. Noi lo stiamo facendo da tanti anni, abbiamo un fardello del debito pubblico che non è più sopportabile, unito a una spesa pubblica previdenziale che è pari al 17% del nostro. Io non so dove vogliamo andare e l'unica soluzione è abbassare il nostro tenore di vita per non rimettere tutti i nostri debiti sulle future generazioni. O capiamo questo o non ne usciamo mai. Uscire dall'euro per far cosa? Altri debiti? E chi li pagherà? Non c'è passo gratuito in questo mondo. Grazie Pasquale. Allora, una cosa importante, dato che le telefonate che sono, io so già che cosa succede, che poi arriveranno le email, i tweet, gli status su Facebook che diranno oggi a 9 in punto hanno fatto intervenire solamente quelli pro euro. No, è che in questo momento, cari favorevoli all'uscita, non state telefonando. Se volete 800 24 00 24. 9 in punto. Allora, saluto intanto il professor Paolo Savona che ci deve lasciare, mi scrivono. Allora, torniamo da Giampaolo Galli. Anche se Savona se n'è andato, insomma, diciamo che tutto sommato gli possiamo rispondere, quantomeno per i nostri ascoltatori, cioè, o meglio, gli può rispondere. Galli, prego. Ma intanto osservo che c'è una bella differenza fra rispetto, diciamo, gli ascoltatori radiofonici e coloro che seguono Twitter, perché effettivamente ieri in quello scambio che abbiamo avuto fra me e lei su Twitter abbiamo avuto l'impressione che fossero tutti contrari all'euro. No, c'è gente molto attiva, è normale, evidentemente, insomma. No? C'è gente molto attiva su Twitter e ne prendiamo atto, insomma, senza problemi. Vorrei porre questo problema qui. Intanto noi chiediamo soldi, non è vero? Cioè, noi continuiamo a chiedere sconti sul bilancio nostro, la possibilità di andare oltre le regole europee, e il timore della Germania è che poi alla fine noi non siamo in grado di reggere questo con i mercati, e infatti abbiamo chiesto noi assieme agli altri paesi mediterranei di costruire il fondo salva stati, quel fondo salva stati al quale adesso abbiamo contribuito ma dal quale non abbiamo tratto per ora un beneficio diretto, ma un beneficio indiretto enorme lo abbiamo tratto, perché altrimenti la Banca Centrale Europea non avrebbe potuto garantire quello che ha garantito, per cui adesso ci ritroviamo con un debito pubblico più alto perché c'è quel fondo. Per cui diciamo la questione c'è, ma la questione centrale è un'altra. Secondo me è quella che poneva Pini, cioè c'è un problema di democrazia, di percezione comunque del grado di democrazia dell'Europa. Io sono d'accordo, io credo che per esempio il Presidente dell'Unione Europea dovrebbe essere eletto dai cittadini. Credo tuttavia che fare un referendum sull'euro sia sbagliato. Ci sono due temi completamente diversi. Uno, se stavamo meglio prima dell'euro, e questo è un tema, io personalmente credo di no, ma capisco che su questo si possano avere idee molto diverse. E l'altro è se si può uscire dall'euro una volta che ci siamo entrati. Il motivo per il quale a mio avviso non si può uscire dall'euro è che quella è una decisione che, a differenza di quello che dicono alcuni, per esempio su Twitter, non si può prendere una domenica a notte a mercati chiusi, richiede una lunga discussione, richiede un referendum, richiede una trattativa internazionale, movimenti di opinione pubblica. Mesi e mesi, e già adesso purtroppo ne stiamo parlando. Questa cosa non fa altro che alimentare paure, e se uno sa che prima o poi i propri depositi, i propri titoli si svalutano rispetto all'euro, e che cosa farà? Andrà in banca e porterà i soldi da un'altra parte, come l'Italia fece persino, ricordo, nel 1976, quando c'erano controlli severissimi sui movimenti di capitale. E quindi il rischio che crolli, che non regga il sistema bancario, che gli spread vadano a valori assolutamente non controllabili, quindi ha ragione quella persona che diceva io c'ho il mutuo e quanto mi verrà a costare il mutuo, ma in più sarebbe una situazione di crisi finanziaria molto, molto grave. Oggi la nostra perdita di competitività, perché io su questo sono d'accordo con Savona, noi abbiamo avuto una perdita di competitività e a secondo delle misure, compresa tra il 20 e il 30%, quindi quella è la misura minima della svalutazione che provocherebbero i mercati nel caso di uscita dall'euro. In più ci sarebbe tutto l'effetto di crisi finanziaria, quindi la svalutazione sarebbe enorme, la compressione dei salari reali sarebbe per via dell'aumento dei prezzi delle importazioni, in particolare dell'energia, sarebbe colossale. Credo che nel complesso stiamo parlando di uno shock alla nostra economia, la svalutazione naturalmente dei nostri patrimoni, dei nostri risparmi e così via. In più c'è tutto il problema di in quale valuta sarà denominato il nostro debito con l'estero, sia i nostri BTP detenuti dai tedeschi o dagli americani. È chiaro che questo apre un contenzioso internazionale formidabile, se noi su quella cosa lì c'è scritto che verranno pagati 100 euro alla scadenza, se noi gli paghiamo 100 lire svalutate, questo è un problema molto serio, ma che riguarda anche le banche, le passività delle nostre banche nei confronti delle banche estere, riguarda le imprese, riguarda le persone che hanno passività o attività nei confronti dell'estero. Insomma, ci metteremmo in una situazione di isolamento internazionale, di contenzioso infinito. L'Europa non esisterebbe più in quel momento, assolutamente isolati sul piano internazionale. Prima di chiudere, siamo quasi in chiusura, scrivono su Twitter una provocazione interessante, che non è nemmeno troppo una provocazione della quale si è parlato, insomma abbiamo circa un minuto e mezzo, Galli, ci scrive Paolo Di Lullo, ma l'idea non è far uscire l'Italia dall'euro, l'idea è farne uscire la Germania, nessun panico, e risultato equiparabile, lei come la vedrebbe una Germania fuori dall'euro, vantaggiosa per noi alla fine? Ma guardi, quando nel 1993 la Francia, ricorda che ci fu una crisi, un attacco speculativo alla Francia e si fece la famosa banda larghissima dello SME, la Francia, guidata da Trichet, allora disse: se i tedeschi non ci aiutano come è nelle regole dello SME, la Germania da domani è fuori dallo SME. La Germania disse: va bene, noi usciamo dallo SME. È una storia poco nota, perché poi non andò a finire così. Io allora facevo parte della delegazione di trattativa italiana. La Germania disse: va bene, usciamo e rivaluteremo il marco. Allora questa cosa va bene. Naturalmente tutti gli altri paesi dissero, l'Olanda e poi l'Irlanda e poi la Spagna eccetera, e allora noi usciamo con la Germania. E la Francia rimase sola, per cui quella decisione alla fine. Abbiamo 10 secondi, secondo lei sarebbe stato meglio l'euro senza la Germania? No, non sarebbe stato concepibile, non sarebbe stato immaginabile. Nemmeno politicamente, probabilmente. Grazie Giampaolo Galli, grazie Gianluca Pini, chiedo scusa a Francesco da Bari, Gianni dalla provincia di Biella e tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire. Un ringraziamento anche a Filippo Aureggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione come sempre. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente.